Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Benvenuti in un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, qui è Stefano. Io sono Pietro, ciao. Io sono Margherita. E dopo le lezioni, beh, noi siamo rimasti qua, non siamo fuggiti, siamo rimasti avremmo qua. Avremmo voluto, ma l'impegno della radio impelleva e quindi siamo rimasti qua e ci siamo dedicati alle droghe pesanti a questo punto. Beh, ne parleremo durante questa puntata e quindi prima lanciamo Epitado negli Schiantos. 1, 2, 6, 9. Ma che cazzo me ne frega? Genere ragazzi, genere? Ehi sbarbo, smolla la biga che sfumiamo la tele. Sei fatto duro. Sei fatto come un copertone. Ci facciamo? Barbie, sono in paradura. Ok. Ok, nessun problema ragazzi. Nessun problema. Sbarbie, sono in paradura. Schiodiamoci. C'hai della merda? Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca. Oh, c'hai della merda o no? Ma che viaggio ti fai? Intrippato. Brutta storia ragazzi, brutta storia. C'ho delle storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo svego. 1, 2, 6, 9. Non esiste nulla al mondo che possa competervi. Niente in grado di raggiungere la stessa velocità di profitto. Nulla che possa garantire la stessa distribuzione immediata, lo stesso approvvigionamento continuo. Nessun prodotto, nessuna idea, nessuna merce che possa avere un mercato in perenne crescita esponenziale da oltre 20 anni. È la cocaina, il vero miracolo del capitalismo contemporaneo, in grado di superare qualsiasi contraddizione. L'azienda Coca è senza dubbio alcuno il business più redditizio d'Italia. Queste sono le parole di Roberto Saviano che mettono in luce un problema abbastanza sentito, che appunto tutto il denaro che le mafie e il narcotraffico prende appunto dai traffici di droga. E oggi vogliamo parlarvi proprio di questo, vogliamo parlare del tutto il mercato che le mafie controllano, il mondo della droga, che è uno dei principali proventi appunto delle mafie, e non solo delle mafie italiane, ma in generale di tutte le mafie presenti nel mondo. E è interessante osservare come il mercato della droga funzioni, perché la maggior parte delle droghe viene dal sud del mondo, da paesi come la Colombia, tutti sanno, per la cocaina, e o il Messico, gli Stati Uniti, l'India, e l'Italia sicuramente è un bacino importantissimo per le mafie. Infatti soprattutto nei porti di Gioia Tauro, Napoli, Genova si smerciano tantissime quantità di cocaina, eroina, marijuana che vengono appunto dalle principali mafie internazionali che collaborano tra di loro. Molta roba viene qua a Bologna. Assolutamente, assolutamente. Parliamo un attimo dei costi, cioè nel senso di quanto guadagnano da partire da un chilo di cocaina, per esempio. È interessante perché ad esempio un grammo di cocaina costa più o meno 58 euro. Esatto, 58 euro al grammo. Quindi un chilo di cocaina costa 58.000 euro. Brava Margherita, si vede che hai fatto bene i tuoi calcoli. E comprandone di solito a 4 kg di sostanza alla volta. 58.000 per 4 è 232.000. Straordinario Margherita. E quindi queste ne pagano 2.000. Quindi tipo fatturano 100 volte tanto. Appunto la cocaina, come diceva anche Roberto Saviano, è una grandissima fonte perché ti permette di centuplicare il guadagno dal prodotto. Assolutamente, e noi in Italia comunque siamo degli assidui consumatori, non ci facciamo mancare niente, tanto che c'è un rapporto del 2009 su consumo e dipendenze da sostanze appunto in Emilia Romagna, e risulta che ben quasi il 35% della popolazione regionale tra i 15 e i 64 anni dichiara di aver fatto uso di cannabis almeno una volta nella vita, e il 14,7% dice di averne fatto uso l'ultimo anno. Noi ci fidiamo di queste cifre, poi probabilmente qualcuno ha mentito, saranno sicuramente di più, però. Però c'è sicuramente da dire un'altra cosa, che questo mercato parte a bomba, dagli anni 80, gli anni in cui anche la droga sintetica ha cominciato a svilupparsi in maniera più grande, però la droga c'era già dagli anni 70, solo che la mafia si incentrava su appunto l'eroina, perché i tossicodipendenti non ne possono fare a meno, hanno bisogno di assumerne sempre di più. Gli stessi anni 70 in cui incominciano le prime infiltrazioni di stampo mafioso all'interno dell'Emilia Romagna, ma prima vi lasciamo con una canzone chiamata Purple Haze. Quindi, come appunto diceva Stefano, l'origine della narcomafia in Emilia Romagna viene più o meno negli anni 70, e diciamo che l'Emilia Romagna si mostra da subito una terra fertile per lo sviluppo del narcotraffico, soprattutto nella fase finale dello smercio, mentre il deposito continua a rimanere Milano, che è appunto il centro da cui poi viene smerciata la gran parte della droga destinata al nord. Quindi, verso la metà degli anni 80, l'Andrangheta si interessa alle province di Modena, di Reggio Emilia, mentre intorno all'area della Riviera Romagnola, soprattutto Rimini e Forlì, c'è la presenza di clan camorristici, mentre a Bologna c'è stata fin dall'origine il narcotraffico mafioso, una sorta di politica del vivi e lascia vivere, diciamo così, e quindi accanto a cosche locali si affiancavano dei clan più organizzati come la famiglia Mammoliti dell'Andrangheta di San Luca, che è appunto attiva soprattutto nella zona del Pilastro ed è una dimostrazione di questo modo di condurre le cose. No, ma infatti è interessante anche capire come la mafia si sia sviluppata in Emilia Romagna, perché di fatto è tutto frutto di una politica giudiziaria, a mio avviso, assolutamente sbagliata, che è stata portata avanti negli anni 70, per cui i mafiosi che venivano beccati dai giudici venivano portati a una sorta di confino, a dei soggiorni obbligati lontano dalle loro terre d'origine. Come se non esistesse il telefono. Come se non esistesse il telefono, e quindi di fatto hanno contribuito al proliferarsi del fenomeno mafioso anche in Emilia Romagna, e ne è dimostrazione il fatto che appunto in questa terra la mafia abbia avuto una vita molto serena, anche perché con occhi molto indiscreti e lontano dalle, diciamo, dalle sparatorie, dai fenomeni, diciamo, più tangibili, ha continuato a svilupparsi vivendo anche pacificamente nei rapporti tra clan e spartendosi il mercato, che era molto ampio. Poi città piena di giovani, città piena di circolo, di droga, questi che vogliono, cioè, insomma, una città piena di vita e di possibilità di mercato per la droga come utilizzatori finali, come direbbe buon Ghedini. Viva Ghedini. E tu, Stefano, che conosci molto bene il fenomeno in quanto ex tossicodipendente. Sì, sono stato tossicodipendente da Un Posto al Sole, ma non lo guardo da 3 anni, ne sono uscito, molto fiero. Ne è uscito felicemente. E dopo ci concentriamo sulla situazione di Bologna in particolare, ma prima vi facciamo sentire un pezzo scelto da Margherita. La presentare canzone allegra alla grande e canzone di Natale degli Zen Circus. Arrivo in fondo, no, a questo punto. secondo primo e il primo secondo, mi azzecchiamo il tipo, che se no sprofondo. Si chiama tu il mio babbo Natale, con le Nike di renna nuove. Dietro la stazione al solito pilone, Tunisi mi aspetta fra un paio. Un po' di sconto me lo farà lui, che è il boss del Natale S.P.A. Ciao Dud, sono io. Ah, ciao bello. Senti, allora ci si può trovare verso le 5? Sì, sì, vai, tutto a posto. Dud, senti, io ho 20 euro. E allora niente, non mi dai soldi tutti o niente. Aspetta, senti, io ho un paio di guanti nuovi e c'hanno sempre l'etichetta. No, ma sono belli e poi ti fanno comodo a te con questo freddo, sei africano. Ma che cazzo vuoi, dammi i soldi, ci vuole 30 euro almeno. Dai, Dud, per stavolta ti porto 20 e i guanti. Dai, è Natale. Ma mi porta un cazzo a me di Natale, io musulmano. Ma per favore, Abdul. E dai, cazzo, Abdul, sto male. E se stai male vai all'ospedale. Dai Pietro, basta. Dai. Non fare il grigio, Pietro. Basta la canna, dai. No, ragazzi, un attimo, ma forse siamo in onda. Ah. Oh cazzo, ciao. Bentornati alla Lucciole nelle Tenebre. Scusate, magari la spegniamo. No. Dunque, stiamo appunto parlando del fenomeno delle narcomafie, di quanto sia grave. Ecco. Gravissimo! Siamo un attimo tutti fatti. Allora, ma ritorniamo alla situazione di Bologna. Ci teniamo in particolare a parlare di un'operazione che è stata portata avanti dalla DIA di Bologna, che è la Decollo Money. È un'operazione che ha coinvolto soprattutto i clan andranghetisti del clan Mancuso, in cui facevano riferimento in particolare Ventrici e Barbieri, questi due mafiosi che hanno, dal 2001 più o meno al 2011, hanno diciamo governato il mercato della droga in Emilia Romagna, in particolare a Bologna, e gestendo appunto il traffico di eroina e cocaina. E Barbieri è stato tra l'altro ammazzato nel 2011, mentre Ventrici sembra sconti più o meno una pena in carcere, anche se non è ben definita. Tra l'altro la cosa che a me ha fatto più impressione è il fatto che Barbieri, condannato agli arresti domiciliari, abbia dovuto scontarli all'hotel Baglioni, che insomma non è proprio sì, non poco caro, insomma, sì, un posto bruttissimo. E tra l'altro gli era stata concessa la libertà di trovarsi un lavoro, e di fatto l'aveva trovato in un'azienda che in realtà appunto riciclava denaro sporco e diciamo che appunto era impegnato nel mercato della droga. E quindi mi è entrato a fare questo esempio, per quanto breve, per farvi capire che comunque Bologna non è certo esente dal fenomeno, anzi. Perché vi direte, ma io comprando che cosa provoco? Beh, comprando in realtà finanzio un mercato che va anche contro lo Stato stesso. Cioè, molta gente non si rende conto di quanto siano importanti in certi casi piccoli gesti, di quanto entrare in contatto con delle certe realtà possa favorire qualcosa di molto più grande di noi, che va al di là della semplice canna di una sera, eccetera. Cioè, amici. Cioè, tutti vanno in Piazza Verdi la sera e gli capita di fumarsi la canna e dicono: ma sì, tanto io mi fumo una canna, cosa vuoi che faccia alle narcomafie? Invece poi, se uno pensa in larga scala, il problema diventa più serio. E per quanto uno dica la compro dall'amico e tutto, vai te a sapere poi da qual è l'origine. Molto spesso l'origine è mafiosa, appunto. Se avessimo tutti le piantine a casa sarebbe bene. Sì, infatti il nostro messaggio finale vuole essere quello di assolutamente un consumo legale. Drogatevi in perché casa. Sì, consumate in casa, consumate le cose fatte da voi, i vostri prodotti, non andate a comprarli quando potete coltivarli voi. Drogatevi, ma con coscienza. Ecco, questo è il nostro messaggio. Prima di concludere, vi ricordiamo ancora che ci sono ancora dei posti per la manifestazione nazionale di Libera il 15 e 16 marzo. Ci sono dei pullman che partono da qui a Bologna alle 6 del mattino e costano, perfino quelli di 25 anni, 10 euro, oltre 15. Il numero da contattare è 051 22 83 90. Poi c'è anche il nostro cineforum, che sarà il giorno 13 marzo alle ore 20 e presso l'ora di 3 di economia, Piazza Scaravilli 1/1, e si vedrà il portaborse di Lucchetti. E dunque noi concluderemo qua la nostra puntata. Grazie mille per averci seguito così numerosi e appassionati, e ci sentiamo alla prossima. E vi lasciamo con la nostra campagna per la legalizzazione, quindi Legalized Premier. Viva il Premier. Ciao ciao. Bye. Y que a la piota testa, man, hai casti amanti, hai qualche minorenne nei tuoi tanti, parti mai sposarti, ma fai.